dal Bronx, non viene da Star Trek e neanche da Mod. Viene soltanto da un paesino. Noi siamo i suoi rapper e lui è un cretino. Ehi ehi ehi, bel figadino, tira fuori il fumo da sotto il cuscino. Ehi ehi ehi, bel figadino, tira fuori il fumo da sotto il cuscino. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Subito quella lattina, la voglio bere, la voglio bere. Aprimi subito quella lattina, la voglio bere, la voglio bere. Dai Dimitri, non ti fermare, tutta la notte devi guidare, dai che sei un bel figadino. Noi siamo i tuoi rapper e tu sei un cretino. Oppio marocco e un po' di nero, mette fumo nel pensiero. Oppio marocco e un po' di nero, mette fumo nel pensiero. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Aprimi subito questa lattina, la voglio bere, la voglio bere. Aprimi subito questa lattina, la voglio bere, la voglio bere. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi. Listen listen, rap del taxi.